Arresto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Le interviste della domenica qui a Arresto Radio Convento, la web radio del nostro locale convento di Nonato del Garda. Siamo anche un locale multiculturale, perché ovviamente Brescia e provincia di Brescia la fanno da padrone, anche Verona, ma insomma ci sono tanti che ci raggiungono da varie zone del nord Italia, nord-est italiano per essere precisi, ma in questo caso abbiamo veramente un purpurri di come dire, un atlante geografico all'interno di questa sala, perché ci sono amici che vengono da varie parti del mondo anche, quindi ci fa piacere ospitarli e capire anche un po' di più della loro storia, delle loro passioni, di cosa li porta qui, e quindi vogliamo condividere con loro e raccontare con loro questa serata. Vai, cominciamo con le presentazioni. Io mi chiamo Jennifer e ho 16 anni. Ah, wow! Sono nata a Marina di Ravenna, di origine cubana però. Di origine cubana, perfetto. Sì. Poi? Ciao a tutti, sono Benny. Benny, chiaramente, estero, no? Straniero. Straniero, si sente che insomma almeno America del Sud, più o meno l'accento è America del Sud, no? 50 km più in là. Ah, 50 km più in là. Ok, bene, bene, bene. Benny da dove? Lentini. Lentini dove sta? Siracusa. Ah, Siracusa. Beh, vivi qui adesso? Sì, sì, sì. Ah, ok. Da quanti anni? No, beh, sono in giro così per una ditta grossa, che lavora nel settore chimico. Uh-huh. E mi sposto. Ah, quindi non sei stanziale qui, non sei fisso? No, sono di passaggio. Ti trovi più di passaggio, ok, poi? Che abbiamo? Hola, sono Garcia, Yamis Lady, e sono qui, e sono cubana, 20 anni che vivo in Italia ormai. Ok. Ah, mamma di Jennifer, sì. Wow, 20 anni che sei qui, beh, quindi tu sei nata in Italia, Jennifer? Sì, sei nata in Italia, perfetto, poi? Io sono Rosa, ho 20 anni, sono del Salvador. È il Salvador? E che hai dei rapporti con loro, no? Sei un'amica? Ma vivi qui anche tu? Sì, fantastico, e come avete fatto a conoscervi una cubana e una... come si dice? Salvadoregna, no? Come l'equadoregna, ok. Salvadoregna, come avete fatto a conoscervi? In centro per caso? E vi siete piaciute subito? Avete sentito il corazon caliente della latina, avete sentito che qualcosa vi apparteneva. E Yamis Lady, cosa ti ha portato a scegliere proprio la nostra zona? Allora, io sono venuta qui da voi un anno fa. Ok. No, beh, ma al di là del convento, dicevo proprio l'Italia, perché la zona del lago di Garda, cosa ti ha portato qui 20 anni fa? Io abito a Brescia. Ok. Sono venuta, io sono cubana, non è facile uscire da Cuba, una lettera di invito, sono rimasta qui a lavorare e adesso sono 20 anni. Quindi hai scelto per lavoro? Sì, e soprattutto per vivere, perché l'Italia è favolosa. Sì? Ti piaceva? Perché insomma, già Cuba non è che sia brutta, eh? No, Cuba è fantastica. Quindi è per quello che volevo capire come mai questa scelta. Ah, economica. Economica era. Non è stato facile, o sì? È stata dura prendere questa scelta. Beh, certo, c'è la famiglia. Infatti, immagino. No, però magari chiedevo perché magari, come dire, hai voglia di andartene da un posto e la voglia di andare è molto più forte di quello che lasci, e quindi, ok, è una scelta importante, ma non così difficile. Volevo capire. Assolutamente no. Se tu avevi voglia di andare via. Ok. Quindi comunque la spinta ad andare era più forte di dei legami che avevi in quel paese lì. Ho portato un po' tutta la mia famiglia. No, li ha influenzati. Bene, hai popolato. E tu, Jennifer, che ci racconti? Sei tornata già mai a Cuba o? Sì, da quando ho 11 anni più o meno viaggio sempre a Cuba, sempre per vedere la famiglia. Non beh, certo. E ora lavoro con mia mamma nella sua ateliere. E cosa fate di bello? Vediamo capi su misura, riparazione. Wow, capi su misura, ma per tutti, cioè nel senso uomo, donna o solo? Uomo, donna e bambino. Ah, fantastico, ma dove, a Brescia? Sì. Dai, come si chiama? Fateci un po' di pubblicità. Creazione Sartoria. Ok, e quindi vi dedicate più o meno a tutti gli ambiti. Oh, grande, teniamo. Di tutti gli ambiti, quindi uomo, donna, bambino? donna come bambino, e sposi, cerimonie, riparazioni. Ah, ok. E beh, vendete quindi anche, non è solo produzione. E come mai? Vabbè. Sì, sì, sì. Ah, ok. Beh, tu immagino lo facevi da sempre. È una mia passione da piccola. E quindi che ho, diciamo, sviluppato qui in Italia, okay, facendo una scuola all'Accademia del Lusso di Milano. Ah, e... bella quella, importante, molto importante. Ma sei partita già col tuo negozio o eri alle dipendenze di qualcuno e poi hai scelto questa strada? Assolutamente, ho lavorato in tanti. Ah, ok. Quindi è una cosa che è venuta dopo. È venuta col tempo. È una passione che porto da tutto. Sì, sì, sì, però dico il negozio, l'idea dell'atelier è nata strada facendo. Certo. Ok, non sei venuta qui con l'idea... Sì, sì, dico, non sei arrivata con l'idea di aprire subito. No, okay, con l'idea di fare qualcosa. Certo, che ti piacesse, che ti piacesse. Molto bene. E come hai fatto a trasmettere questa passione anche alla tua ormai non più piccolina? Cos'è che ti ha affascinato di questo mondo? Da piccola sempre mi ha visto uscire, fare lei, anche lei. E anche io mi mettevo lì con le bambole, vestivi le bambole. Sì. Vedi, si parte sempre così, così se gli spilli un fianco non gli fa troppo male. E invece voi ragazzi che fate di bello? Gli altri due che mancano l'appello? Allora, io bello, sono chimico. Vabbè, tu sei già detto, esatto. Beh, hai qualche altra passione? Pare che è difficile, se viaggi così tanto non so quanto tempo hai di gestire passioni. Faccio da 11 anni in buttafiori. Ah, quindi, beh, però comunque è anche un lavoro, quindi. Sì, della notte. Sì, uomini della notte, siamo noi, la gente della notte, siamo fratelli in questo. Bene, e dove, beh, discoteche quindi? Sì, qua nella zona del... No, ok, ma come dire, butta fuori, oddio, non voglio essere, per farti capire, no, nel senso sicurezza da locale o tipo quelli che sono nei negozi che fanno più usceri, controllo, ok, entrambi. Discoteche, teatri, manifestazioni. Sicurezza quindi, ok, sicurezza. Bravo, bello, piace, sì, si vede da come ne parli. Stanotte lavoravo. Sì, intanto, vedi, anche noi siamo ancora qui. E la nostra salvadoregna? Sto imparando anche da loro, perché sono sempre da loro. Ah, e ti stai appassionando anche tu a questo? Sì? Aspirante, vedi, un aspirante, come dire, come si chiama? No, stilista, ok. No, pensavo avesse la... Beh, sarta alla fine, no? Sarta, sì, anche, sarta, un aspirante sarta. E cosa ti ha colpito di questo mondo, di questa professione? No, perché mi piace, beh, a scuola ti insegnano i tessuti, tutte quelle cose lì. Ok. Cioè, a me è piaciuto tanto fare lo scavatore, ma... Ne stai approfittando adesso. Bene, dai, vedrai che se hai una passione forte ci sarà sicuramente modo di esprimerla. Ok, allora, grazie di averci raccontato un po' di voi e poi, insomma, ci teniamo anche a tenerci aggiornati, quindi tornate a trovarci per sapere come va e per raccontarci anche le nuove tendenze del 2020. Che quelle sono importanti, intercettarle prima porta sempre tante belle cose. Allora, grazie mille ragazzi, vi auguriamo un buon fine serata e a presto. Grazie. Ciao! Ciao. State ascoltando Radio Convento.